America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. La discussione sulla manovra annunciata ieri in Italia è arrivata fino a Washington. La minaccia di Giorgio Epifani, segretario della CGIL, di proclamare uno sciopero generale, così preventivo, è stato oggetto di discussione anche qui nella capitale, perché come sapete c'è ancora la visita del nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha affrontato appunto la situazione dopo la presentazione della manovra da parte del presidente del Consiglio Berlusconi e del ministro Giulio Tremonti. La posizione del presidente della Repubblica è chiara: la politica in Italia si deve fare in Parlamento e non in piazza. E quando qualcuno gli ha chiesto appunto qual era la sua risposta alla dichiarazione del segretario della CGIL, il presidente ha detto, prendendo le distanze da decisioni lecite ma che si muovono contro quella dimostrazione di unità nazionale, ha detto: beh, insomma, io non faccio il segretario della CGIL che decide ciò che tocca al segretario della CGIL. Il presidente in questo viaggio ha sempre portato un messaggio costante: primo, unità nazionale davanti alla crisi; secondo, la crisi c'è, è innegabile, va affrontata e risolta; terzo, ci vorranno dei sacrifici, sacrifici, ha sottolineato, che debbono essere equi; quarto, a dimostrazione che tutte le parti politiche si rendono conto della gravità della situazione, ha auspicato che maggioranza e opposizione riescano responsabilmente a trovare un accordo di compromesso. Ecco, la giornata del presidente era comunque cominciata nella mattinata con una visita al Congresso, al leader della Camera, Nancy Pelosi, il presidente della Camera. Sentiamo la Pelosi. Devo dire che la Pelosi ha accolto il nostro presidente così, con grande amicizia, e poi ha ricordato l'amicizia anche personale che la lega al nostro capo dello Stato e naturalmente al nostro paese, visto che è italo-americana. Ha ricordato di essere la prima donna, ma anche ha detto la prima italo-americana, uomo o donna, a diventare presidente della Camera, un personaggio dunque che in America ha già fatto storia. Ha apprezzato le forti relazioni fra Italia e Stati Uniti nel contesto della NATO, ha detto non c'è miglior alleato dell'Italia, e soprattutto ha ricordato dal suo punto di vista l'importante storia politica ma anche culturale di Napolitano, che poi a sua volta ha preso la parola. Il Presidente della Repubblica ha anticipato l'importanza, lo ha fatto in lingua inglese, l'importanza del rapporto ovviamente fra Italia e Stati Uniti, ma soprattutto ha voluto dare un messaggio di forza dell'Europa. Ecco, questo messaggio lo ha poi articolato in un discorso che ha presentato davanti alla leadership del Parlamento. La Pelosi ha detto che c'era moltissimo interesse per questa visita, proprio perché era da tempo che non si presentava un leader europeo da quando è esplosa la crisi greca, e dunque proprio su questo il nostro presidente si è concentrato. Ha riaffermato naturalmente che la strada dell'integrazione europea e di un'Europa forte deve essere la risposta al rilancio davanti a questa crisi, e soprattutto guardando al futuro. E devo dire che secondo me ha fatto notizia su un punto, perché il presidente ha detto in modo molto articolato che sarà necessario cambiare il patto di stabilità e crescita. Avendolo fatto nel Parlamento americano, ovviamente questa sua affermazione ha un peso politico ben più importante che se fosse stata ai margini, per esempio, di una conferenza stampa. Il presidente ha articolato queste sue dichiarazioni, tra l'altro ho saputo, dopo aver incontrato il ministro del Tesoro Giulio Tremonti subito prima di venire qui in America, e riflettendo anche il lavoro di Herman Van Rompuy, il presidente permanente dell'Unione Europea, che ha creato una task force proprio per esplorare l'ipotesi di riforma del patto di stabilità. Napolitano non ha voluto avallare ipotesi concrete di riforma, non ha fatto riferimenti specifici per esempio alle iniziative di Van Rompuy, ma le sue posizioni sulla crescita e sul debito suggeriscono secondo me che il Quirinale avalla cambiamenti sostanziali che da una parte puntino a una maggiore flessibilità, e dunque qui ci riferiamo a parametri severi sì nel rapporto debito-PIL nel lungo termine, ma possibilità di uscire per periodi brevi dalle percentuali prefissate, dall'altra a un maggiore interventismo della banca centrale a vantaggio della crescita e non necessariamente solo per la protezione ossessiva di origine tedesca della stabilità dei prezzi. Questo Napolitano lo ha detto in un contesto in cui in una frase dice evitando rischi di deflazione. Un messaggio forte, dunque, un messaggio di rassicurazione sul fatto che l'euro continuerà ad esserci, che è un wishful thinking, è un'illusione forse di qualcuno che vorrebbe giocare contro l'euro quando dice che il futuro della nostra moneta unica è non soltanto instabile, ma forse anche alquanto oscuro. L'euro resterà, l'Europa resterà, l'auspicio che esca rafforzata da questa crisi. Poco più tardi il presidente è andato a una cena all'Omni Shoreham offerta dai Sons of Italy, quindi un bagno di folla con la comunità italo-americana, poi è ripartito e da qualche ora è già rientrato in Italia. Procedure called a top kill. Avete sentito, è partita l'operazione Top Kill, l'operazione della British Petroleum per cercare con un tentativo disperato mai provato prima di chiudere il buco sui profondi fondali del Golfo del Messico e finalmente interrompere questa emorragia di petrolio che sta creando un disastro, un incubo ambientale. E la situazione è talmente tesa che Barack Obama, esasperato dopo un incontro di nuovo inconcludente per risolvere il disastro ecologico del Golfo del Messico con i suoi consiglieri, insomma proprio lui l'imperturbabile ha perso le staffe e ha lanciato un acuto a cui nessuno dei presenti era minimamente preparato. Tappate quel maledetto buco! A un certo punto si è fatto scappare con rabbia evidente. Ripeto, è raro vedere Barack Obama fuori controllo, però la situazione è molto complicata anche dal punto di vista politico. I repubblicani stanno attaccando l'amministrazione, ritengono che non sia stato fatto abbastanza, non si sia agito in modo tempestivo, mobilitando magari l'esercito per giocare d'anticipo su quella che era una crisi già scritta in qualche modo. Invece l'amministrazione si è tenuta in disparte, ha lasciato che la British Petroleum prendesse le decisioni più importanti, ha mobilitato sì la guardia costiera, ma di fatto anche questa operazione è interamente nelle mani della grossa compagnia petrolifera britannica. La decisione di partire con l'operazione Top Kill è arrivata ieri e si tratta di creare una struttura di tubi alta 5 piani e poi di riversare tonnellate di liquidi pesanti, molto pesanti, dei fanghi per cercare di creare un enorme tappo che sia costruito per chiudere questo buco. La difficoltà ovviamente è quella di farlo a 1500 metri di profondità e dunque inaccessibile in modo diretto, un'operazione che presenta dei rischi non da poco. Se non funzionerà, il rischio è che per alcuni mesi centinaia di migliaia di litri di petrolio continueranno a invadere le acque del Golfo del Messico per alcuni mesi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. Beh, questo weekend che arriva è il fine settimana che celebra l'avvio dell'estate, lunedì e vacanza. Ci saranno una gran quantità di artisti che si esibiranno qui a Washington, da Lionel Richie, Gary Sinise, Joe Mantegna, Brad Paisley, Kelly O'Hara. Potrei continuare, ma vi lascio invece con una grande canzone di Lionel Richie, All Night Long. Bene, da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, dove sarò di nuovo in sede a New York. Goodbye and get going. America 24.